Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, anche se forse avrei dovuto iniziare con un mea culpa per un errore tutto del sottoscritto. Infatti questa sera non andrà in onda la puntata annunciata stamattina dedicata a Ecubo, che invece è andata già in onda ieri sera e potete scaricarla facilmente dal podcast oppure dal sito di Radio 24. Questa sera invece seconda puntata che dedichiamo a STEM, solare termodinamico Magaldi, un nuovo tipo di solare termodinamico basato sulla tecnologia del letto fluido. Che cos'è? Prendete un pentolone bucherellato, quasi uno scolapasta, pieno di sabbia molto fine e attraverso i buchi pompate all'interno del pentolone dell'aria. Se la portata d'aria è giusta accade un fatto sorprendente. La sabbia si gonfia e il risultato è una sospensione di particelle, un mix di sabbia e aria che si comporta esattamente come un liquido, ma che a differenza dei liquidi può sopportare temperature altissime. Nella scorsa puntata dedicata a STEM abbiamo visto come questa tecnologia messa a punto dal gruppo industriale Magaldi utilizzi un letto fluido appunto per assorbire il calore della luce del sole concentrata in un punto da centinaia di specchi. Questa sera continuiamo a parlare di questa tecnologia per capirne meglio i punti di forza con il contributo del responsabile scientifico di STEM, Gennaro De Michele. Buonasera De Michele. Buonasera. Il principale vantaggio del sistema è che è in grado di accumulare grandi quantità di energia. Uno può accumulare energia anche per 10-15 ore, aumentando la quantità di sabbia che c'ha nel suo sistema. Ovviamente sarà necessario aumentare pure la quantità di specchi, perché l'energia viene da lì. In realtà questa è una caratteristica tipica del solare termodinamico, no? Abbiamo ricordato quella di poter accumulare energia anche per molte ore. Mi pare che la differenza qui è che utilizzate un materiale che costa molto poco e un sistema semplice, insomma uno rovescia un po' di sabbia in più nel famoso pentolone e ha più capacità di accumulo termico. Esattamente, tutto questo utilizzando materiali che sono perfettamente ecosostenibili. Altri materiali possono avere dei problemi di smaltimento, la sabbia silicea che noi utilizziamo può essere facilmente riutilizzata per qualsiasi scopo. La flessibilità, il sistema del letto fluidizzato è un sistema ampiamente utilizzato nell'industria chimica e nell'industria energetica ed è ha la capacità di poter bruciare al suo interno in maniera non inquinante, assolutamente non inquinante, dei combustibili gassosi e anche liquidi. Quindi senza aggiungere nessuna altra apparecchiatura, il nostro sistema STEM è un sistema ibrido. Ok, cioè lei mi sta dicendo che al posto di pompare aria dentro questo pentolone pieno di sabbia per mantenere la sabbia in stato fluidizzato, si pomperà un mix, per esempio, di aria e di metano, quale brucia. E questo cosa vuol dire? Che quando va via il sole io posso pensare di produrre energia con lo stesso identico impianto, semplicemente buttandoci dentro un po' più di metano. E questo è il punto, no? Esattamente. Io sostituisco all'energia del sole e l'energia della chimica contenuta nel gas naturale, o viceversa. Questa dualità di funzionamento del sistema è un'arma in più che consente al sistema di poter essere impiegato anche in zone, per esempio, desertiche, in cui è presente del metano e consente di risparmiare il combustibile che magari in quel momento può essere venduto a costi maggiori. Quindi senta, siamo in una fase in cui credo esista solo un prototipo, allora, però voi come vedete il futuro? Ecco, il nostro futuro a breve è la realizzazione di un impianto in scala industriale. Noi abbiamo realizzato un prototipo da 150 kilowatt termici che ha funzionato per circa 2000 ore senza problemi rilevanti e adesso stiamo progettando un impianto da 500 kilowatt elettrici, quindi un primo modulo che sarebbe la vostra taglia di riferimento, no? È la nostra taglia di riferimento, perché una cosa che non abbiamo detto è che il nostro sistema è fatto da tanti piccoli moduli da 500 kilowatt. Piccoli. 200 metri per 200 metri. Proprio piccoli, no? Comunque, insomma. Fatte a forma di croce che possono essere, legate insieme come in un Lego. Come una tappezzeria, si incastrano. Possono quindi occupare uno spazio nella migliore maniera possibile. Al momento, la nostra prospettiva è di, in Italia, è fortemente remunerativo in relazione agli incentivi che ci sono, che remunerano impianti di solare termodinamico. Però noi pensiamo anche ai posti in cui non arriva la rete e in cui il nostro impianto, proprio per la sua semplicità, la sua robustezza e la sua ecocompatibilità potrebbe essere una soluzione ideale. Grazie Gennaro De Michele. Grazie a voi. È tutto, a domani.